La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo lunedì 7 marzo, 16:31 primi, in diretta dal Sud di Milano. Vi saluta Oscar Giannino e vi ringrazia per l'ascolto. L'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Per intervenire sul tema di oggi, che ve lo dico subito, riguarderà la privacy tutelata o meno su tutti i dati fiscali nostri, è un problema annoso, come vedremo, ma che ha quest'anno una particolare delicatezza in più. Lo spunto è un articolo che trovate oggi, Scuola della Sera, pagina 19. Però noi abbiamo un ospite che ci ha posto un altro problema, scrivendoci e segnalando quella che, a suo giudizio, io condivido, ma l'ascolterete, è un problema molto delicato che si verifica rispetto agli adempimenti che da quest'anno i medici devono fare per il 730 precompilato di noi tutti. Quindi parleremo, vi sentite tutelati? La domanda è: vi sentite tutelati su come vengono trattati i vostri dati fiscali? Oppure pensate che non sia troppo difficile per chiunque vi voglia procurare un danno, abbia un proprio interesse verso la vostra vita, da quei dati, avendone accesso in maniera illegittima, ricostruire e usarli contro di voi? Ecco, questa è la domanda. Perché questo spunto oggi era sulla stampa nazionale? Perché il Corriere della Sera, con Luigi Ferrarella, sapete, l'autorevolissimo cronista e giornalista che segue le vicende giudiziarie per conto del Corriere della Sera, ma non solo quelle giudiziarie, oggi dava conto di una lunga lista di osservazioni che l'autorità garante per la privacy, diretta da Soro, aveva fatto pervenire all'amministrazione tributaria e al ministro Padoan, invitandoli a intraprendere ogni sforzo utile a ridurre significativamente i rischi di accessi abusivi. Queste preoccupazioni nascono negli anni dall'autorità garante dei dati, perché, se ricordate, nel 2007-2008, in occasione della pubblicazione prima e poi venuta meno, autorizzata inizialmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti, poi venuta meno dopo essere stata travolta dalle polemiche di violata privacy che quella pubblicazione aveva suscitato, ma senza evitare che dei giornali pubblicassero tutte le liste provincia per provincia, partì poi un troncone di indagini anche giudiziarie, perché risultò che c'era un vero e proprio commercio parallelo da parte di agenzie di sicurezza privata che si procuravano i codici di accesso ai dati sulle persone su cui stavano svolgendo indagini privatamente, e venne alla luce quindi la facilità con cui era possibile, visto il grandissimo numero di terminali periferici dell'amministrazione tributaria, interrogare attraverso quei terminali il database centrale elaborato e custodito dalla SOGEI per conto dell'anagrafe tributaria, e insorgevano così veri e propri fenomeni di mercati paralleli relativi ai dati delle posizioni tributarie di privati cittadini e imprese, e quindi scoppiò uno scandalo all'epoca, rispetto al quale quelli in corso sono gli sviluppi cioè incentrati a rendere noi contribuenti, che siamo stati tenuti negli anni a diventare sempre più trasparenti agli occhi dello Stato. Lo ricordo, da un anno e mezzo c'è la piena trasparenza di ogni nostra movimentazione bancaria nei confronti dello Stato, per avere garanzie però supplementari, che gli accessi al database fiscale siano possibili solo a coloro che hanno il diritto e il dovere di avere accesso. Sapete che c'è una doppia procedura di PIN di sicurezza per avere accesso all'immissione di dati propri sul database fiscale, perché si riceve prima un PIN online nella prima parte, poi se ne riceve in una busta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate il resto della password. E nell'articolo di Luigi Ferrarella si continuava a dire che in realtà ci sono molti aspetti che, a giudizio dell'autorità, non sono ancora sicuri, perché risultavano ancora dati di accessi da alcuni comuni fino a 4.000 accessi a più di 1.000 codici fiscali differenti, senza che si innescasse il previsto blocco dell'utenza. Quindi, insomma, un fenomeno di accesso ai dati difficilmente coerente con quello della tutela della privacy. E L'Agenzia poi delle Entrate e la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria hanno emesso una nota stamattina, a seguito dell'articolo del Corriere della Sera, in cui si dice che già da quest'anno sono state messe in atto barriere potenziate per evitare la vulnerabilità nell'accesso ai dati, e quindi è possibile oggi accedere ai dati personali del contribuente relativi alla precompilata, cioè al 730, solo con appunto la procedura di sicurezza rafforzata, cioè quella della doppia password. E quindi l'Agenzia delle Entrate ci ha tenuto a dire che il confronto con l'autorità garante va avanti, ma che insomma si è molto solleciti nella tutela della privacy. Questo è lo sfondo, anche se i dati richiamati nella comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al ministro Padoan del Garante fanno pensare che ci siano ancora, diciamo, delle soglie aperte sul fatto che non sia poi così impossibile avere accesso ai nostri dati. Se non che su questo sfondo si pone un altro problema. Noi ci siamo occupati dall'inizio dell'anno in due occasioni degli obblighi che tutti i medici hanno, proprio in vista della precompilata, di comunicare all'amministrazione tributaria le prescrizioni e quindi anche le patologie a cui le prescrizioni sono collegate dei loro pazienti, per consentire appunto di avere in precompilata anche le spese sanitarie. Vi abbiamo informato, abbiamo parlato con i rappresentanti dei medici del fatto che questo obbligo avveniva e avviene e avverrà a spese dei medici. Ci siamo interrogati sul quanto onere di lavoro e che tipo di procedure questo richiedesse. Ci siamo interrogati soprattutto sulle pesantissime sanzioni a cui i medici sono chiamati in caso di errore o inadempienza, fino a 50.000 euro sommando eventuali errori sui dati, e ci siamo quindi occupati di questa cosa che riguarda la professione dei medici. Se non che una nostra ascoltatrice ci ha scritto e ci ha sottoposto un altro problema, che è relativo esattamente a quello della tutela della legittima privacy dei malati a fronte degli obblighi che dall'anno scorso, da metà dell'anno scorso, tutti i medici sono tenuti a rispettare per comunicare i dati all'Agenzia delle Entrate in vista del 730 precompilato. Noi abbiamo chiamato la nostra ascoltatrice, ne abbiamo verificato l'esistenza, eccetera, eccetera. Lei ci chiede, in rispetto della professione che svolge di medico di famiglia a Roma, una tutela dell'anonimato. È ovvio che sa per prima che in caso di richiesta dell'autorità giudiziaria saremmo tenuti a dire chi è, eccetera, eccetera. Ma insomma, questa nota ascoltatrice medica di famiglia a Roma, secondo me, coglie un punto, e io vi pregherei di ascoltarla, perché è un problema, secondo me, che riguarda la vita di centinaia di migliaia di italiani. Intanto grazie di essere con noi, di averci scritto per segnalarci questo problema, dottoressa. Grazie a voi. Allora, spiega ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta. Si tratta di questo: come lei giustamente ha detto, noi tutti i medici, anche i laboratori di analisi per i ticket, le case di cura private dove uno è stato ricoverato, eccetera, eccetera, devono mandare per forza, legge dello Stato, all'Agenzia delle Entrate le nostre ricevute fiscali. Dalle ricevute fiscali noi tutti ben sappiamo, no, sanitarie, si riesce a dedurre facilmente la patologia del paziente, no? Allora io ho scritto diverse lettere di protesta al garante della privacy e tutto il resto, dicendo: ma come, noi mandiamo in rete dei dati così delicati? E loro mi hanno risposto dicendo che loro avevano considerato questo fatto e mi hanno mandato proprio una loro delibera data 3 agosto 2015, sottolineo data 3 agosto 2015, in cui scrivono loro, io sto leggendo quello che loro hanno scritto, in considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute di decine di milioni di persone, sono state individuate precise misure a tutela della privacy. Mi sembra una frase molto chiara. Sì. Pronto? Sì, sì. Poi sì. Dice, contribuente informato. Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche. Cioè, questa frase è giustissima e correttissima, no? Sì. Questa è data 3 agosto 2015. Allora io mi chiedo, come prima cosa, L'Agenzia delle Entrate vuole che noi mandiamo tutte le ricevute sanitarie dal 1 gennaio 2015. Tutti i cittadini che hanno avuto le prestazioni sanitarie prima come potevano essere informati? Mi domando. Ecco, prima domanda che mi può. E infatti, poi, se vengono informati ex post, non lo sapevano, è evidente che è così. Poi, generalmente io chiedo a tutti i pazienti, le persone, poi anche quelli che hanno avuto, diciamo, prestazioni sanitarie dopo, non sono stati informati, perché diciamo che nessuno ne sa niente. Non so, in generale i pazienti sono assolutamente all'oscuro di questo. E a me sembra un fatto gravissimo, perché il paziente che non sa niente, no? Darà, pensando che tutto sia come il 2014, no? Darà la sua pass di accesso, tutto quello che si vuole, ai familiari, al suo datore di lavoro, all'impiegato del CAF. Classicamente appunto al CAF, cioè a quello che poi è responsabile CAF, ma anche a dei suoi, c'è qualcuno in famiglia che dice 7:30 lo fai tu, esatto. Il commercialista lo fa lui, non so se sono spiegata. Allora io dico, forse non ci siamo mai chiesti, io sono un medico e conosco i problemi, i segreti, le situazioni delle famiglie italiane. Questo fatto secondo me può comportare proprio delle cose addirittura quasi tragiche. Adesso io. Lei ha scritto testualmente: tre miei pazienti, sì, quando io li ho informati di ciò a cui sono inevitabilmente esposti per via di queste procedure obbligatorie, leggo, sono rimasti sconvolti quando li ho informati, perché è evidente che ci sono moltissime situazioni nelle quali anche all'interno delle famiglie insomma, non è che cose, le cose. Ecco. Io guardi, gli ho chiesto diciamo tra virgolette l'anonimato, non perché ho niente da nascondere, no, ma ovviamente. Proprio per rispetto verso i suoi pazienti, certamente. È ovvio, perché se lei vuole io posso, nella nominato, descrivere questi tre casi. Faccia, senza entrare troppo in dettagli che impediscono a chiunque di riconoscere ovviamente l'identità dei suoi pazienti, però faccia capire a chi è in ascolto, perché poi questo, se posso dire, nella mia modestissima esperienza di paziente, è una delle classiche cose che gli italiani praticano ma non dicono volentieri, cioè il fatto diciamo che diciamo in generale, allora può capitare che una ragazza per qualche ragione abortisca, può capitare, ci sono mille situazioni, no? Una cosa, in Italia capita, abbiamo tanti aborti, può tenere nascosta la sua famiglia questo fatto qui, così. Perciò questa ragazza magari, certo, l'aborto si fa nella struttura pubblica, ma però può fare visite ginecologiche private oppure anche in tramegna dove si paga, poi si ha per caso un'anemizzazione, altre cose, deve fare diverse analisi di laboratorio e dove compare che lei ha pagato diversi ticket, no? Allora, se questa ragazza non sa niente e diciamo può affidare al padre, diciamo che non fa niente, di compilare il suo 730 e tutto il resto, lei si domanda quando questo genitore vede che nessuno sta in famiglia, che ha fatto 10 visite ginecologiche, tutte quelle analisi di laboratorio, altre cose, forse qualche dubbio gli verrà. Certo. Poi adesso non voglio fare la così, però ci potrebbe anche essere qualche marito tradito che forse viene a scoprire qualcosa. No, ma poi soprattutto oltre a, diciamo, il velo di riservatezza all'interno della famiglia, ci sono questioni ancora più rilevanti dal punto di vista della tutela del diritto ad avere la privacy. Per esempio, nel caso di aziende che a questo punto, come sostituti, compilano i 730 eccetera per i loro dipendenti, o appunto per il CAF di cui parlavamo prima, cioè stiamo parlando di cerchi di estranei veri e propri, e nei confronti dei quali la pubblicità delle patologie di cui soffre il lavoratore dipendente o il lavoratore che si è rivolto al CAF per avere l'ausilio necessario per la precompilata e l'integrazione della precompilata, perché avrete capito che per esempio per le spese farmaceutiche sarà ancora necessario per via del ritardo della chiarezza nelle disposizioni non impartite la scorsa estate alle farmacie, c'è stata una polemica, ce ne siamo occupati a questi microfoni, però sono tutti ambiti nei quali questo problema esiste. Allora, io ringrazio intanto la dottoressa che ce l'ha segnalato. Le chiedo, dal suo punto di vista, che certo non è quello della tecnica dei sistemi di gestione digitale dei dati tributari, ma è quello appunto di un medico di famiglia, come si può immaginare di conciliare la raccolta di dati digitali con i livelli di tutela della privacy dei pazienti? Però la risposta me l'ha data un minuto, perché adesso abbiamo le informazioni sul traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, spunto della trasmissione, una polemica che torna e tornava anche stamattina su Corriere della Sera nei confronti della scarsa capacità dell'amministrazione tributaria italiana a fronte di milioni e milioni, anzi di miliardi di dati tributari raccolti digitalmente in banca dati che riguardano la vita di noi tutti, di preservarne davvero l'accesso solo a chi ha i legittimi titoli per trattare quei dati. E negli anni abbiamo visto molte indagini partire penali proprio su questo mercato parallelo privato degli accessi impropri sui terminali periferici, che dice l'agenzia a tutela della privacy, lo spunto dell'articolo del Corriere della Sera, continuano ancora. E la risposta stamattina c'è stata dell'agenzia delle entrate, della commissione bicamerale per l'anagrafe tributaria, che ha detto no, veramente stiamo facendo il possibile, però oggi ci interroghiamo sul fatto se l'onere a carico dei medici di informare di tutte le prescrizioni sanitarie, quindi è chiaro, è una specie di radiografia delle patologie di ogni paziente, non comporti problemi molto rilevanti, per esempio i familiari, le aziende, i CAF che a quel punto hanno le password per accedere, che vengono cedute dal soggetto fiscale in questione, è inevitabile che possano venire a diretta conoscenza di patologie. E non è affatto detto che il soggetto chiamato all'ottemperanza dell'obbligo fiscale abbia l'intenzione, la voglia di informarne. Ma soprattutto il problema che ci ha posto la nostra dottoressa che è con noi è relativo al fatto che, siccome capita già per quello del 2015, per il futuro si potrà chiedere il consenso sottoscritto da parte dei pazienti, che seppur con la solita firmetta dovrebbero essere a quel punto consapevoli formalmente del destino che può attenderli. Ma per il pregresso, per il 2015, tutti quanti come milioni siamo esposti automaticamente senza nessuna garanzia a tutto questo. Questo è il problema legale, secondo me, fondatissimo in termini di diritto. Secondo lei, dottoressa, come si può trovare una soluzione? La soluzione per il futuro è la firma, ma per il pregresso, quando non si era informato? Io faccio firma adesso, faccio firmare al paziente. Guardi, per il progresso io trovo la cosa, guardi, direi tragica, non voglio essere esagerata, ma io temo addirittura, guardi, che noi fra due mesi avremo un femminicidio a causa di queste cose. Lei, spero di sbagliarmi, ma non so fino a che punto noi ci rendiamo conto che i cittadini non sanno niente e danno la pass di accesso a tutti, perché pensano che sia come l'anno prima. Questo, ma calcoli che noi abbiamo 2 milioni di cittadini italiani che hanno l'epatite C, non so i numeri di quelli che hanno l'AIDS e tengono tutto nascosto, giustamente, perché siamo pieni di pregiudizi, lo sappiamo tutti, senza parlare... Sono uscite proprio ieri, la interrompo, i dati relativi al fatto della, tra virgolette, molti considerano scarsamente credibile, questo dato stabilizzato da molti anni, di 4.000 casi diagnosticati di AIDS l'anno, perché li considerano, cioè, non tengono conto di un coefficiente tra virgolette di nascosto un po' più elevato. Okay. Molto elevato, ma anche all'interno delle famiglie. Adesso qui io potrei raccontarli non so quanti casi, perché io sono medico di famiglia attento, ascolto tutti, di situazioni nascoste all'interno dei nuclei familiari. Aspetti un secondo che c'è un'ascoltatrice che interviene da Genova, di cui leggo solo medico in pensione. Sentiamo la sua opinione e vediamo che cosa ci dice. Maria da Genova, prego Maria. Grazie dell'opportunità, prego. Buongiorno a tutti. Volevo segnalare che purtroppo il segreto professionale è stato abolito fin dal tempo in cui era ministro dell'economia Domenico Siniscalco. Da allora hanno sostituito sui ricettari del sistema sanitario nazionale, quelli che un tempo fino a oggi erano le ricette rosse. Bravo. Hanno sostituito il numero di matricola sanitaria col codice fiscale e hanno tolto l'elaborazione delle prescrizioni del sistema sanitario nazionale al Ministero della Salute e l'hanno passata al Ministero dell'Economia. Siccome la SOGEI del Ministero dell'Economia, esatto, non legge i numeri di matricola sanitaria, hanno, esatto, messo il numero di codice fiscale. Esattamente, sì, così. Però aspetti dottoressa, però. Questo è il presupposto legale attraverso il quale lo Stato vi può chiedere, e vi ha chiesto infatti, di dare tutti i dati a se stesso. Di violare il segreto professionale. Però è stato modificato il regime di tutela vostro. Qui stiamo parlando delle conseguenze del venir meno della tutela, che invece resta nel nostro ordinamento, alla privacy, per tutti i pazienti, ed è quello che è il problema non risolto in assenza di un'informazione preventiva e di un consenso motivato dato in piena consapevolezza, perché i dati del 2015 partono per tutti gli italiani senza che questo consenso sia stato chiesto né dato. Quindi la sua osservazione, per quello che posso capire, io adesso sentiamo la nostra ascoltatrice, perché io non sono medico, che dice la nostra ascoltatrice dell'obiezione in merito al venir meno del segreto professionale per i medici dal tempo del Ministero Siniscalco. Quindi, in cui disperata io ho scritto che noi abbiamo stracciato il giuramento di Ippocrate e abolito il segreto professionale, particolarmente su questa situazione. La trovo gravissimo questo fatto qua, che noi abbiamo mandato in rete per ubbidire all'Agenzia delle Entrate. Io dei dati così riservati dei nostri pazienti. Guardi, io ho avuto una discussione con il mio commercialista perché non li volevo mandare, perché poi alla fine lui mette una legge dello Stato, dottoressa, se vuol pagare 50.000 euro di multa. Perché le sanzioni per questo sono pesantissime. Perché le sanzioni però sono... Però io mi vergogno. Posso dire, dottoressa, a me, io sono molto colpito dalla sua rettitudine, dalla coerenza del suo pensiero nel difendere... come la sua collega che ci ha chiamato, il fatto che ci sia un fondamento di diritto naturale alla tutela del diritto professionale per chi tratta situazioni così delicate che hanno a che vedere con la sfera più intima della vita delle persone, la vita, la morte, le malattie. Il problema è che lo Stato si piglia tutti i margini oramai, perché dice trasparenza, trasparenza per gli altri, a noi non ci dice neanche quanto guadagnano di preciso i dirigenti della RAI. Però detto questo, io ammiro veramente lo spirito con cui lei ha posto questo problema, perché la stampa non se l'è posto minimamente, perché la gara ideologica a dire tutti chi ha qualcosa da nascondere, qui non si tratta di avere qualcosa da nascondere, reati, qui si tratta del fatto che ciascuno è titolare del diritto di sapere lui che cos'ha, di parlare lui con i medici, di informare i suoi familiari entro una certa valutazione, di tenere all'oscuro chi ritiene all'esterno, se non si tratta di patologie per cui bisogna ovviamente evitare casi epidemiologici per cui si è obbligati alla segnalazione. Ecco, tutto questo, cari ascoltatori, grazie alla nostra ascoltatrice, nessuno l'ha sollevato sulla stampa italiana, e si tratta dei diritti di milioni e milioni di italiani. E un'altra ascoltatrice ci telefona e dice: guardate che però a noi il segreto professionale l'hanno levato dalla sera alla mattina perché l'amministrazione tributaria non leggeva i dati, cioè i codici dell'amministrazione sanitaria. Tutto quello che serve allo Stato passa, hops, senza porsi il minimo problema della vita e dell'impatto sulla vita di milioni di noi tutti. C'è ancora Francesco da Napoli. Francesco, prego. Buonasera. Volevo soltanto, diciamo, precisare, io sono un ingegnere informatico, scrivo le parti di software, sì, proprio di questi argomenti. È utile, che molto il utile. Dato che viene trasferito è un dato semplicemente economico, nel senso che l'informazione che passa dal medico all'amministrazione tributaria viene aggregata, è solo codice fiscale importo. Questi poi vengono aggregati per nucleo familiare, e quindi di fatto l'informazione su che tipo di prestazione è stata erogata non compare da nessuna parte, per cui sarebbe impossibile pensare quello che lei ha detto poco tempo fa, nel senso che chi legge poi il 730, quindi lei dice la preoccupazione della dottoressa ha una risposta in re ipsa per come il dato risulta, è così? Certo, perché di fatto l'unico sospetto che potrebbe venire al padre di famiglia che trova delle spese, sì, sanitarie che non è sull'ammontare, fatto, ma non sulla ragione. Aspetti un secondo, sentiamo la dottoressa che ne pensa. È soddisfatta di questa risposta tecnica? Dunque, a me risulta così, che io mando visita specialistica senza specificare data. Pochi secondi. Però scusi, col mio codice fiscale, il mio nome e cognome che poi risulterà. Allora, quello del CAF, il padre all'inizio, può vedere la somma, dice questa ha speso in visite specialistiche 500 euro. Però se vuole con la sua password, se vuole controllare se ci sono tutto il resto, gli compare. Quindi il diretto interessato, dice la dottoressa, può vedere che cosa gli compare. E rimane il problema, torneremo ad occuparci con il 24, appuntamento alle 8:15 di mattina con Alessandro Milan.